Attenzione, canale 10. Sì, sono attento, sono attento. Uè, signor Marco Scorpio, buonasera. Uè, Gianni, ti sento con un eco lontano, lontano, lontano. Dove sei, Gianni? Me lo stanno dicendo in parecchi, non capisco il perché. Quella batteria che scarica. Non lo so, con un eco lontano. Ma sono in macchina io già, sono vicino a Santa Maria. Adesso provo a toglierlo, ecco, guarda come mi ascolti. Molto meglio già, così arrivi molto meglio, la modulazione è più forte, più chiara. Kappa. Andava, ecco, la sede rientra a casa? Ancora no, c'ho da fare un'altra commissione, ma sono lì, sono già le 6, tanto le 6:10. C'è ancora poco da fare. E tu? E io sono sempre fermo, Marco, sempre fermo con questi dolori alle gambe da non poter camminare nemmeno. Sto camminando con le stampelle perché ho questi dolori effemori. Adesso devo fare una visita specialistica, vediamo un po'. Aia, accidenti già, non sapevo. Speriamo non sia niente. Ho fatto già una lastra e ho delle artrosi importanti alla spina dorsale, però siccome ero caduto in pisteria, sono scivolato e sono caduto e sbattuto il bacino, io sto pensando che sia quello, perché tutti e due i femori mi fanno male proprio a livello dell'omero. Mamma mia, non è che c'è qualche microfrattura o qualcosa del genere che magari non si è palesata ma è presente? Perché guarda caso, cioè questa concomitanza lascia da pensare. Lo so, Marco, però da questa caduta qua poi mi era passato, capito? Si è risvegliato tutto di colpo questa cosa, ha cominciato ma dolori da non poter piegare le gambe, come le gambe di legno, ce l'ha presente, da non poterle piegare. Adesso ho fatto cure, ho comprato pomate a go-go, tipo Lasolil 2, Voltaren, ho fatto le iniezioni, niente da fare. Porca miseria. Ai ai ai, che guaio, mi spiace. Vai, speriamo che riesca a ripetere. Ma è da molto questa cosa già? È da molto, sarà un mesetto che sono così. Ho resistito sino a quanto potuto lavorando. Andavo in macchina, mi dovevo alzare la gamba con la mano per portarla dentro la macchina. Poi quando dovevo cambiare la marcia, dovevo alzare la gamba, metterla sulla frizione e poi toglierla, capito? Da solo non ce la facevo. Oh, il cavolo, così è pericoloso, è pericoloso. C'è una città urgente, non ti puoi muovere, è un problema. E appunto perciò, poi non ce l'ho fatta più, mi sono messo in malattia, cosa devo fare? Quando non ce la fai, non ce la fai. E poi arrivavo proprio alla fine della serata che tutti i miei colleghi parlavano, facendo, io prendevo, mi mettevo sopra le catasse del pellet con i cavoli perché dal dolore non ce la facevo. Via. Mi spiace. In bocca al lupo, speriamo che passi subito, Speriamo che passi subito questa cosa. Speriamo. Adesso vado a fare una visita a pagamento, vediamo un po' se mi dice qualche cosa di buono da poter fare. Adesso mi hanno dato, Giulio mi stava dicendo che lui, il nipote, gli aveva fatto fare una cura con un'apparecchiatura dove lavora lui all'Istituto del Profilato, che lo usa perché c'è la stessa malattia che c'hanno i cavalli. Ah, facevo entrare in questo macchinario che ti scaldava la parte, dice che poi non c'è più andato perché logicamente lui lavora lì, se lo trovano passa casini, e allora se lo faceva con la stufa di casa. Beh, dice, lo sai che mi è preso, passati due, non li ho più avuto con questo calore che mi emanava addosso, e ci sto provando anch'io adesso. Prova un po', vedi un po' che cosa succede, se migliora la situazione. Tentare non nuoce. Diciamo che un po' di sollievo me lo dà il sollievo un po', però non è che mi passa del tutto. Poi se mi metto a camminare di nuovo mi fa male. Ma la cosa di fatti un po' preoccupante è questa, cioè visita una SAC, cosa ne so, un qualcosa di approfondito per controllare meglio, qualcosa di lesionato da quella caduta che poi si è riacutizzato, capito? Chi lo sa, sono caduto malamente perché ero lontano, questo cliente mi ha detto, ascolta, mi puoi dare un po' di gamberi, non ricordo sempre, un po' di gamberi surgelati. Io sono andato, era bagnato in terra, sono caduto e questo qui mi vuole voltare da trotto, non mi toccate perché non si sa mai che mi sia fratturato qualche cosa, non mi toccate, lo so per esperienza. E niente, sono stato un quarto d'ora seduto tutti quanti attorno, non mi muovevo, non riuscivo a alzarmi, guarda una cosa allucinante, e poi mi sono alzato e mi sveniva voglia di svenire dal dolore. Ma secondo me ci conviene insomma farsi più approfondita, ma magari, come ti ho detto, se con la una lastra o non so, da uno specialista fare può dire su questa cosa, perché un trauma così magari c'hai ancora qualche posto di questo trauma e sta creando questo. No, le ossa sono a posto, l'ho già fatta la lastra, mi ha detto solo che ho delle artrosi importanti nella spina dorsale, così mi ha detto il radiologo. Come sta uscendo? Oh, è strano però, perché prima sia con l'eco sia con l'eco arrivavo forte a telefonati, radio. Avanti, chi è? Buonasera! Sì, ciao Daniele. Buon Danielito. Buona. Saluto nel circolare a tutti. Ciao Daniele, buonasera. E tu la stai usando Daniele? Oggi ti sento un po' più pimpante dell'altro giorno. Sempre la stessa, l'87. Sì, ma hai aumentato qualcosa, perché è più forte la modulazione. Non lo so, sempre uguale qua. Ah, forse è il microgain. Guarda un po', ora. No, amplificato, va bene, lascia così. No, l'altro giorno mi sembrava un po' faccia, mi sembrava un po' faccia, è bella amplificata. Capa, e tu dove sei? Sono praticamente sulla via Tano, sulla rotta. Ah, ecco, no, perché avevo il segnale oscillante. Sì, sono in macchina. Ehi, io sono uscito poco fa, mi sono uscito per andare in banca a ritirare qualcosa perché non c'ho più una lira in tasca, e visto che non sto uscendo, sono andato a ritirare qualcosa in banca, ma poi niente, non sto uscendo per niente. E scappa, già così è, se sei in questa condizione è meglio che stai un po' più tranquillo, sicché non fai niente. E tu Daniele, a casa? Cappa di Rosmetro, a Domus! Tanto mi ha risposto a fare un'altra commissione, e come è anche io. Ti saluto, magari sentiamo più tardi, dai. Buona serata. Ehi, ciao. Buon rientro e buon tutto, lasciamo qua, se vuoi puoi entrare dopo. Ciao, buon proseguimento, a dopo, dai, se coincide. È tanto già. Cosa? Ho detto, è tanto. Ah, ho capito Tyson, secondo che si chiama Tyson. È tanto, quindi. Come sto uscendo adesso, Giuseppe, che ho messo l'eco? Mi dico tutti che passo. Va bene. Forte e chiaro qua, forse anche troppo alta è quella radio. Forse perché in macchina non si ascolta bene con l'eco, In macchina è più difficile ascoltare con l'eco. Io mi ricordo quando modulava la buona anima di cosa, come si chiama? io per devo cercare una cassa esterna da mettermi in macchina. Ehi, basta andare alla radice e comprarla. Io ho quella con il filtro ben buona, ma buona veramente, si sente benissimo. No, te io ce l'ho una di computer così, perché se la metto in macchina con la cassa originale non si sente nulla. Ah, quello sì, anch'io avevo fatto così, avevo messo la cassa. Ma non ho più grande di tanto, di quelle piccole. Qui è scaduto e si sentiva bene lo stesso. Non lo ricordo, l'avevo presa su internet, 12 euro mi pare. Ehi, ai. No, l'ho preso solamente il jack mono. Ma allora me la faccio, ca. Se no in macchina non lo posso usare, perché in quella macchina ci vogliono le cuffie. Senta, la bici mi pare che mi stava l'ultimo, 22 roba del genere, la stessa casa. Cappa. No, ricorda che si senta poi, originale, non originale, ma fotti nuda. Anda bene veda, cava cava. E quindi adesso sei contento che c'hai questo 88. 87. Bevi. Ma non te l'ho mandata la foto come lo sistema tra la banana cinese qua? No, l'hai mandata a Claudia a me, infatti mi sono offeso. Cosa? Che l'hai mandata a Claudia a me, no. Ah, mi sono dimenticato. Aspetta, già, te la mando, aspetta. Oh, mica si è scherzato. Avanti, prego. Attenzione, che ha fatto un break su 10. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamata e si sintonizza l'ascolto. Prego, prego. Guarda un po' già, ma che era Gigi Vulcano era? No, non era Gigi Vulcano, era lontano. La voce più bella c'era, adesso guardo lì, da lì. Che trovata la mia io. Sì, l'avevi mandata già. Tempo fa sì, se non l'hai modificata. Oh, ce l'ho sempre uguale. Cappa di Rosmetro, va bene. Guardati il messaggio e trovo. Dove sei arrivato? Aspetta che mi devo andare. Andale. Sì, va bene, non è ordinato. Vedi. Cava, cava. Adesso ho visto la tua così. Perché non li metti tutti giù quegli alimentatori già? Perché mi piace così, perché io ho gli strumenti dell'alimentatore, mi piace avere proprio gli strumenti, sì, sono fatto così. Ma poi gli alimentatori giù ne ho due, tre, ho tre alimentatori io, per ogni apparato c'è un alimentatore. Ecco, sì è vero. E l'altro in basso a sinistra cos'è? Alimentatore già? Sì, è un alimentatore anche quello. Proprio l'ultimo giù. Verso sinistra. Sì, è un alimentatore sopra c'è la lampada automodificata. Cappa, perché la cosa si capiva se era una radio, un alimentatore, quindi hai quattro alimentatori c'hai. E quel cobra digitale già, come funge? Gianni. Dai, scusa, ma ti devo lasciare che arriva la gente, dai, sono andato a aprire la porta. Cappa di Rosmetro, va bene, fai. Apri. Cava. Va bene. Va bene Massimilia, a posto, puntello? Ciao Daniele, allora? Ormai non siete nelle 45 a fare propagazione. Non ho sentito nessuno. No, io ho sentito quel piccolo puffo dall'Ungheria. Ah, no, e a che ora? Ma adesso? Adesso. Strano. Dimmi, ho qua esito, sto facendo le chiacchiere con Gianni, ma due passaggi veloci che poi si è allontanato che è arrivato gente. Andiamo a vedere se c'è qualcuno là. Aio. Sto a Real Madrid, c'è l'ottonda di danni che vanno bene, eccetera. Però, che stai tornando? E chi è? Daniel, sì. Positivo. Scappa Rogero è sganciato. Aspetta, con la moto zappa. Se no fai il gabba anche tu. Se no, Ruggeccio. Cava, cava, va bene. Sta girando bene adesso, sì Massimiliano, tutto a posto. Cappa, cappa, tutto a posto. Va bene. Volevo fare le prove col... col 48, non l'ho ancora attaccato al 48 questa, la soffetta. Oh, ma non ce l'hai lì, aggancio. Aspetta, gli attacco l'antenna, aspetta. Ma sì. Allora, aspetta, che fammi organizzare qua, così sono a minima potenza, esci a vedere. K, così sono con due. Tutto chiuso quindi? K, tutto chiuso. Aspetta che aggancio. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Buona, buona la radio. La radio è buona. E se ne lamenta pari di watt? Però sganciati il coso e controlla, controlla come si. Allora, così sono 2 watt. Guarda, aspetta, così siamo 3 watt. Sempre buona. Adesso aggancio, Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre buona la radio. Portala con 5-6 watt. Aspetta che sgancio. Allora, andiamo. Guarda, 6 watt tondi tondi. Ok, i picchi sono sempre positivi. Tutto a posto, vai. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Eh sì, al limite però, proprio al limite, sì, un po' compresso. E allora scendiamo. Scendiamo a 5. 4 e mezzo, va. Prova. Guarda un po', 4 e mezzo. Ora la cipolla. Così è buona. Così è buona. Puoi scendere anche ancora di mezzo watt. Guarda, adesso Massimiliano. Così è migliore. Migliore ancora? Sì, sì, così è migliore. Guarda, altro pelino più giù sono sceso, Così sto aumentando anche la radio. Aspetta. Siamo 2 watt e mezzo, più quasi 2, quasi 3 sono. Ok, sganciato o agganciato? Sganciato. Aggancia. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. È bella, bella radio così. Cambio. 1, 2, 3. È bella anche con l'eco. Cavalerosmetro. Gira bene qua la storia, Cappa, quanto sale quel coso? Ora. Mi sta segnando 100 modulati in scala kilowatt. Sono quasi il doppio. Cava, Però sai, Massimiliano, che qua, cioè spengo questa storia. A te lo strumento quanto tirava di picchi? Con 2 watt, non mi ricordo se andava intorno ai 18, 20 o 22, una cosa del genere. Guarda, perché questo, là, 4 e mezzo me ne segna modulati. E ma che scala sei? Scala 10. Scala 10? K, c'è un abisso, non so perché. Scala 10, ma in che scala stai guardando però, in alto o in basso? Quello in basso l'hai fatto, Massimiliano. Ma è una cosa, io te li ho fatti vedere anche qua, ti ho fatto un video. No, lo so che lui sta erogando, ma è lo strumento che... Mi sa che queste la ZG non segnano i picchi, Massimiliano. E avevo quello lì. Già lo sai che cosa c'ho per provare. Quello con tre ventole, segnava gli stessi watt che segna questo. Cava di rosmetro, strano, ora, va bene. E che vuoi ti dica, Non lo so. Sono tirchi questi strumenti ZG. Che cosa? Aspetta un attimo. Ora, eccolo qua. Stavo dicendo, sono tirchi questi ZG. Diciamo che per avere una buona cosa devi spendere un po', là. Io questo l'ho pagato 160. Già li ho visti. No, adesso tra un po', tra qualche mese, dopo l'estate, insomma, me lo procuro uno di quelli. Ce n'è anche un altro che non è della Daiwa, è della Uxin, ed è NC801, mi sembra che sia. NC o CN, però della Uxin, è buono lo stesso anche quello lì, è da 3 kW. Oxin con la X, vero? Sì, io. Aspetta che lo cerchiamo. Oxin. Scrivi il rosmetro, va, ti mettono 3 kW. Aspetta che lo sto cercando. Guarda, ce n'è uno bello in vendita, della Revex, quello che è bello, 5 kW fa. 5? Sì, quello è bello, quello è proprio un bel rosmetro. Dici che lo guardo? 85 euro. Beh, non è molto. Aspetta, la tua era la Diamond. Forse Dino, è Diamond. Diamond. Ok, ho questi, i Diva sono quelli che sembrano più seri. Gava, gava, già mi appendo a cercarlo. Va bene, va bene. Kappa, kappa. Aspetta che ripasso all'altro, va. Mi ha staccato, no. Aspetta. Gava, gava, positivo, kappa briosciola, cambio, son PL messo male. Ora. Me lo devo rifare nuovo, ora. Se lo rifate non ho voglia di agganciarlo. Ecchi, ma... Gava, gava, dove non è entrato nessuno oggi? Ma c'era Gianni poco fa, lo più room. Poi è sparito e non lo so che fine ha fatto. Si sarà dormito il letto. Ah, più sicura. Gava, gava, va bene. Stavo guardando dove era quel rosmetro e non lo trovo più. Io qua stavo guardando. Esatto, questo qua, l'SX600 della Diamond. 3 kW? Non lo so, sto adesso guardo le caratteristiche. Aspetta che me lo sto cercando anch'io. Allora. No, questo è 200 watt solo. Aspetta, Cava. C'è questo, 400 watt, 89 euro. Ma dove lo stai guardando, Massimiliano? Aspetta, te lo dico dove sto guardando, su Amazon. Ah, no, io ho messo ricerca su Google. Forse mi ha passato poco fa quello, 89 euro. Vediamo quanto costa il mio ancora, aspetta. Ah no, questo è il 901, io c'ho l'801. 3 kW, 175 euro, mincia. Costa la segna giusto però. Ce n'è un altro, sempre della Daiwa, 109 euro. No, 3 kW se potenza 30, 300 e 3 kW. Cava, e li conferma. Poi ci sono questi digitali che... Ma non lo so come vanno quelli. Allora, aspetta, Media Globe, riesce a vedere com'è. Canto good, mi guarda. Allora, che marca è questo qua? Rosmetro DXCN600N. Ad aghi incrociati da 1,8 MHz a 525 MHz, 87 euro. Buono. Aspetta, sto guardando le descrizioni a vedere se fa quanto fa. Allora, esce a vedere, chiudate il telefono, aspetta. Eia, cava cava, il tuo cos'è Massimiliano? 901? O 5, no, 501 no, o 900, 901? E buh. No, il mio è il CN801 HP3 della Daiwa. Capa, quello sì. Ah, eccolo qua, il primo della lista è. 175 avviene, da 30 a 300 3000. Quale guardato? Il 901 però. Eia, 901 HP3. Io invece quello c'è il modello nuovo, io c'ho l'801, capito? Ah, ecco, questi sono tutti 901, 901 HP e V. Cambiano solamente le... una da 200, da 20 a 200, la scala. Cambiano solamente le scale, altro fa più scala invece. Fino a 3 kW, HP3. Eccolo qua, Daiwa CN901, HP3, vattimo, trovo HF 0200, vedi che 3 kW, incrociare 165 euro. Così sono. Ah, ecco, quello della, anche della Proxel c'è. Ok, poi ce n'è uno della Proxel, 200 watt, aspetta che mi... 520 e 200 watt. Cos'è, l'SX200 o il 400? No, il 200. Quello da 70 euro. Non lo so, mi sta caricando la pagina, aspetta. No, vabbè, sono attessi. Il 200 e il 400 vengono 70 euro l'uno. Ma ti conviene se lo prendi, prendilo almeno un kilowatt. capito? Anche se non c'è grosse potenze, però è sempre meglio prenderlo così. Sì, ma sì, no, se lo prendo buono, come a modo, finito questo giro, poi là. Scappa, aspetta. Cava, cava. C'è anche 400 watt, fa 5, 20, 200, 400, l'RS 460 euro. Ehi, i prezzi sono buoni, poi bisogna vedere i risultati, però tutti stanno usando il Daiwa, vuol dire che è buono. Guarda, Gigi ce l'ha così, per esempio, Gigi ce l'ha come questo, da fa, noi, non come il Daiwa, della, cosa hai visto, aspetta, sì, mi sembra vero. Mi sa di sì. No, Daimo, ce l'ha della Daimo che fa 303 kW, come la serie di questo della Daimo, e ce l'ha questa intorno alle 100 euro. Basta che sia uno strumento serio, capito? Che segni giusto. Vabbè, affanculo, me ne è uscito, se no ce n'era uno bello. Aspetta, te lo ricerco, Cava del Rosmetro. Buonasera, ragazzi. Allora, guarda, c'è questo qua, ciao già. C'è questo Telecom che è uguale alla Daimo. Oh, Daniel, fa 5, 20, 200 e 1 kW, 65 euro. Buono, buono, i prezzi sono buoni. Dopo me lo guardo, che marca è quello, Massimiliano? Ciao Gianni. Se vai su Media Globe lo vedi, della Telecom, è uguale però alla Daimo, preciso identico. Capito? E questo fa anche il PEP, Vedi, quello è buono, picco picco. Ciao, avanti già. Buonasera, Dani, stasera subito dopo ha chiamato la moglie, quella del gruppo è dovuta andare in via, quindi sono rientrato, non ti ho più sentito, chiamato, dove sei finito, sparito? Eravamo al 4.5. Ah, ecco perché. E chi c'era? C'era un po' di propagazione, siamo finiti lì a fare a Burotto. Chi c'eri tu, voi? Io, Massimiliano e Gigino. Poi Massimiliano è entrato anche Claudio, 5 minuti così, ha fatto due prove e se n'è andato. Cava, cava. E io, vabbè, siamo qua, che vuole entrare. Cava, cava. E infatti, stasera siamo entrati in tanto qua, no? Io sono entrato verso, mi sono verso le 6. Io subito appresso a te, Massimiliano, cosa del genere, dai. Mi ho fatto dei passaggi qua e poi siamo andati al 45 perché qua non c'era nessuno. Mi hanno lasciato abbandonato. Cava, cava. E i rosmetri vanno su quella cifra, un rosmetro buono, dai. Va su quella cifra lì. Sì, gli altri diciamo sono così, dai, giusto per avere un'idea, per avere tutto sotto controllo, non è niente di che. Secondo me quando te lo compri te lo prendi buono e boh, inutile stare lì a il tesetto a giro se me lo annudami. Ma se ti parlo di quello che sta buttando la foto. Cosa? Di quel tipo che stava buttando la foto, se ti parlo. Era su Facebook che dice che stava tagliando le vene a Ponte Rosello. No, perché dicevamo spostare il figlio da Padre Carlos a non so in quell'altro carcere. Che cosa? No, è meglio che non ero buco e tiro lampo. La malavita che tiro lampo. Aspetta, cosa è Massimilia? E quando tolgo questo spessore ce lo butto. No, io lo vedo dai tic di modulazione, no? Capito? Poi te ne accorgi subito, è già vero. Cava, cava, io su c'ho un commutatore d'antenna ancora in camera mia, non so se funziona o meno, devo provarlo. Provarlo, le lasci, se lo fai, no, con la calata dell'antenna, con una radio puoi usare anche la sufa, con l'altra te la usi normale. Cava, cava. Va bene, va bene, se devo stare, togli l'antenna, metti l'antenna. Se ce l'hai, mettilo, io ce l'ho. Ne ho un altro della Daimo, nuovo, mai usato. Io questo lo sto usando adesso, è della Daiwa. Però non vorrei dire una cazzata, forse si è bloccato quello. Boh, qualche sincope era scesa, perché è V2. E l'altro l'avevo dato. Ma questo è bene, è pesante, è piccolino perché fai l'ingresso dell'antenna e poi mette una radio e un'altra, boh, basta, due uscite. però è bello, bello pesante, bello dalla Dagba. Cava cava, riprendi Gianni Gheddu. Cosa stai cercando da comprare, Daniele? No, accordare non devo accordare niente, già accordato tutto qua. Meglio una chitarra. No, sto cercando un rosmetro, wattmetro e segni, che segni giusto, capito? Ma noi ho detto, cosa stai cercando da comprare? Te l'ho detto, rosmetro, wattmetro. Andava bene. Ma vabbè, ce ne sono tanti, dai. Ci sono quelli incrociati, eccetera, eccetera. Non lo so come lo guidi. Siamo che incrociati, lo voglio, abbassa per la radio già, un pelo. Bene, papà. Fai un passaggio più lungo. Guarda, 1, 2, 3, prova. Ehi, vabbè, senti, va pure la ventola, un qualcosa che c'è intorno. La ventola è una stufetta che mi sto facendo la terapia, la gamba. Non appartiene agli strumenti. Ma ancora accesa, eh? No, adesso l'ho spenta. Ah, ecco, perché era sparita? Perché come la scaldavo, poi la spengo, poi la riattacco, come ce la prendo. Mi sta facendo bene, però mi stanno piacendo voi. Va bene, riprendi Massimiliano. Positivo, positivo, e io Daniele, sai cosa ho fatto? Me li ho conservati piano piano a 10 a 10 e me l'ho preso buono lo strumento, tanto inutile stare lì a cogliere della zeta giro se mi annuta. Sì, Vassilia, perché anche questo, vedi, sia quell'altro che c'ho, la KP202, che questo, fanno tutti la stessa storia, cava cava, si fermano e non salgono di picco. Strano, perché io quello, prima di dartelo, ce l'avevo qua attaccato, l'ho provato, andava bene, boh. Sì, i watt li segna giusti, capito? I watt li segna giusti, però poi non c'hai i picchi. Sì, perché non hanno il PP quello. Capito? I watt sono giusti, niente da dire, però non ti dà i picchi di modulazione e via dicendo, capito? Io per esempio su questo qua, se io non attacco la corrente, se gli do la luce, cioè questo per farti il PP le devi dare la corrente, se no il PP non te lo segna. Quello che ti volevo dire, i picchi, il picco picco non te lo segnano, capito? Questo sì, però le devi dare corrente, se no non le segna, se no ti fa solo la VG. Come questi, ti danno solamente la VG e picco picco non ne hai. Vabbè, ma quando tu ti fai la VG, dipende in che scala lo metti, se lo metti in scala kilowatt devi sempre triplicare. Cava cava, già me ne ricordo queste cose, dai, quello sì. Va bene, ok, mi sa che è arrivata la cena. Ehi, adesso ne approfitto e c'ho il microfono e vi saluto, dai. Che se no oggi non mi tocco la pappa. Buon proseguimento e buon tutto. Ciao Daniele, ciao, buona carica, ci sentiamo. Ciao Daniele, ci sentiamo dopo, se, no, dopo non lo so, neanche io. Se riprendo che domani la sveglia alle 4:30, quindi. Ci sentiamo domani, dai. Ok, ciao, buona carica, ci sentiamo alle prossime, vai già. Io ho già salutato Daniele. Vediamo se c'è qualcuno che vuole andare a fare. Ok, dai, di nuovo salutoni a tutti. Massimiliano, se ci sentiamo domani per telefono, dai. Ciao, vedi tu, dai, io già sono, anche se sto lavorando, già sono operativo, dalle 5 del mattino fino alle 10 di notte. E io lo stesso, 5 e mezza in terra domani. Va bene, dai, ci sentiamo, ciao ciao. Ehi tu, sei fuori mi? Vabbè, Gianni? Ehi. Mi sembra che sia quello di Sorso, Antonio Maria, come si chiama, quello di Sorso. Sicuramente è fuori frequenza. Beh, io lo sento bene, per quello che glielo ho detto. Vabbè, comunque. Aspetta, non hai capito che non sta uscendo bene, deve scaldare la palizza, se non scalda esce male. Sicuramente se vola di capo. Va bene così, là. Sei incomprensibile, non si comprende nulla, adesso si riprende. L'hai compreso a cosa scende male. Eia! E tutto questo si può volare di capo, cazzo! Sembra proprio il discorso. Lucca, Io qua non capivo nulla. Tanto meno io. Ma era proprio molto più sciatto degli altri più. L'altro giorno non fosse cattiva, ma adesso ho sentito solo Luca. Io ho capito solo, già io solo. Lucrezia, Luca. Bruciata tanto. No, l'ha bruciato. Cazzo, allora non si può pure a posto la radio, cazzo. Bu, mette a posto il computer e lascia mettere a posto la radio. Come la radio? Oh, Massimilia, è l'antenna che crea stazionari e non puoi così dire. A casa sola la dice bene. E basta mettersi un accordatore. Scusa, Si mette l'accordatore e gli ammassi le stazionari. Facciamo l'antenna direttamente per te. Ehi, Alu! Ehi, ma ascolta, ma tu sei... Mi stai dicendo già, c'hai gli stazionari lì? Ehi, quasi a tre, come pretendi riuscire a me? Non ce l'hai un accordatore? Ehi, magari mettendo un accordatore risolvi il problema, ecco perché... sembravi tutto... Cioè, non sembravi. Adesso sei un po' incomprensibile, ma prima era proprio incomprensibile, si comprende a lunga. Scusa, è una canna da pesca anche più piccolina delle altre, non te la puoi costruire. Comunque sono sicuro che sei così male perché hai molte stazionarie. Cappa. Allora è traduito, burro, non lo sento più. Avanti già. Tu bisogna che ti dia una puntata per farti capire bene. Che non fai capire? Sì, vabbè, dai, è in condizioni precarie, ha detto che non può mettere nulla, anzi è già troppo quello che ha messo, però facendole una canna da pesca, anche che non sia alta per forza 6-7 metri, gliela fa la metà, 3 metri, quello che è, anche se riesce a portare le stazionarie 1,4, 8, 1,5, riesce a farsi una chiacchierata come si deve, però così la radio è proprio quasi incomprensibile, capito? Ma se mi piace, bisogna vedere anche dove ha posizionato l'antenna, perché se c'è un muro rimbalzano le onde e succede anche con un'altra antenna così. Bisogna vedere proprio dove è messa. Non ho capito. Ho sentito altro, però. Cosa, Lu? Però stai uscendo male, Lu, non è come le altre volte. Cazzo, almeno le altre volte è incomprensibile, ma adesso non si capisce quello che dici, mi. Grappa, grappa. Sono poveri. Mettiamo qualche pentola a bollire, sennò no, quella cosa è brutta male. Via, via, là. Anche io, dai, mi allontano adesso, che devo portare in casa. Poi, se mi tocca a mano, se no, non so se ne vuole cucinare. Vabbè, là, ci sentiamo. Buona serata a tutti. Ciao Luca, ciao Massimiliano, ciao tutti gli amici ascoltori. Chiudo e vado a mandigare. Ciao. Ciao ciao già, ehi ti ordino una pizza, così non cucinerci nulla, te la regalavi a casa. Mamma mia, pizza che fa salire la vicinina, ma si vede. Una cosa tremenda, a 300 me la fanno salire, una pizza. Vabbè, ti pigli un panino, cosa vuoi dire? Ecco qua, Luca, ciao. Allora, in poche parole ce l'ha legata, c'ha una storno, che mi hanno dato la foto, e ce l'ha attaccata dove c'è il filo da stendere. Quindi c'è il muro dietro. No, c'è anche un albero davanti, attaccato quasi a un albero. E quello è che non c'ha sfogo, capito? Poche parole c'ha, le stazionali a tre, capito già. Gli ho mandato la foto. Se me l'hanno detto che ce l'hanno detto. C'è anche da lì, non ha sfogo, c'è il culo da una parte, il culo dall'altra, immaginati da dove passano le onde. È un caso, se magari la metti sul tetto quella lì, vai. Sì, ma c'è anche poco cavo, quindi sul tetto non è promesso. Vabbè, là già, ci sentiamo alle prossime, ok? Dai, mi stacco che così faccio qualcosa, se no casino. Ciao già, buona serata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao